Buonasera a tutti, eccoci buonasera, qui. Buonasera, siamo tornati. Quanta gente, è una festa. Allora, Radio 2010, mi sta stretto lo stivale. Una festa di piazza. Sì, quasi. Siamo tantissimi. È una versione. Ma non siamo in una piazza. No. Quindi... Vabbè, pensavo fosse un modo di dire. Una stanzetta. Vabbè. Basta. Però sempre. Sì, sì. Per carità. Adesso, non so che vedete, non sta andando il microfono e sta andando in tutto. Prego. Allora, saluti da Riccardo Cremona. E da Alessio Strazzullo. I classici. Siamo tantissimi oggi perché. Tanti. È una puntata tematica sull'Estremo Oriente, avremo un rappresentante cinese, diciamo così. Una rappresentante, adesso addirittura farla diventare un rappresentante. Una rappresentante cinese, Martina, dove presenteremo. Abbiamo anche due rappresentanti del Giappone. Esatto. E abbiamo anche un altro ospite, un co-conduttore oggi. Come hai detto? Co-conduttore. Una cosa così, dai. Antonio Bellotta, che salutiamo. Abbiamo un problema di sigla. Perché noi sappiamo che fra Cina e Giappone, un po' come Montecchi e Capoletti, un po' si odiano, un po' si punzecchiano. Quindi chi voleva la sigla cinese, chi voleva la sigla giapponese. Noi quelle italiane abbiamo due pezzi di sigle, una giapponese e una cinese. Salutiamo il nostro DJ, ciao Corrado, come stai? Buonasera. Un po' moscettino, è indaffarato. Facciamo partire le due sigle. È carina, verrà? Che c'ha il suo fascino. Questa è cinese, mi dicono che questa è cinese. E io tutte le mattine mi sveglio con questa musica. Penso che Martina si sveglia tutte le mattine con questa musica. Partiamo con la giapponese per non far offendere nessuno. Vai DJ. Questo è un classico. Mi sa che tanto di cartone animato. Invece sì. Proprio di cartone animato. Cantala. No, dai. Sarebbe troppo. Io sempre sotto la doccia la canto sempre. La mia preferita. Lui è un po' il Michael Bublé, no? Sì, sotto come no? Il Tonino Carotone del Giappone. È anche un bel ragazzo, evidentemente. Uno con una voce così è un bel ragazzo. Secondo me era al Casadei, che è andato in Giappone e ha fatto la fortuna lì, contando queste canzoni. Il famoso liscio giapponese. Allora, cominciamo subito a presentare... Subito. Gli ospiti, che poi non sono ospiti, praticamente sono co-conduttori con noi. Siamo tutti Coco. Allora, per la Cina abbiamo Martina Caschera. Ciao Martina, saluta. Ciao, vicino al microfono. Martina, un po' di coraggio. Gli applausi. Vai. Ciao ragazzi. Vedi, così si fa. Brava. Siamo alla radio, dobbiamo fare questo. Yeah, così, sì. No? È la radio. Poi abbiamo invece dal Giappone abbiamo Emanuele Granatello. Emanuele, scusami. Ciao, piacere a tutti. Loro sono italiani che sono andati lì e noi, visto che non ci facciamo mancare niente, abbiamo proprio una persona invece che è nata lì in Giappone. Misuzu Okamura, che siamo felici di avere qua. Misuzu, puoi salutarci? Konnichiwa. E io sognavo di ascoltare Konnichiwa. Poi invece abbiamo un casertano che si è trasferito a Napoli. Che pure lui ci racconterà dell'esperienza. Antonio Bellotta, saluta. Buonasera a tutti. Eccoci qua. Antonio Bellotta, che ha già condotto delle puntate con il nostro Emanuele. Sì, con il nostro Emanuele, parlando appunto dei temi. Lui, tanto cari. Tu già hai fatto qualche puntata con lui. Sì, ricordiamo che questa è un po' la terza edizione del programma, che nelle scorse edizioni abbiamo chiamato Manco Pacapa. E che faceva, come dire, riferimento al blog tenuto dal qui presente Emanuele, che infatti nelle passate edizioni... Esilio giapponese Reloaded, per la precisione. Vogliamo spiegare anche, Antonio, perché si chiama... Tradizionalmente è stato sempre un modo per rompere il ghiaccio. Manco Pacapa, perché? Esatto, allora spiegaci perché Manco Pacapa, visto che prima di tutto ringrazio i ragazzi di 2010 per averci ospitato. La nostra trasmissione a cadenza quasi annuale, visto che l'anno scorso l'abbiamo saltata. Perché? Perché non mi andava, principalmente. Allora, in giapponese la parola manco vuol dire... Diciamo l'organo genitale. No, quando non abbiamo problemi io sono il primo che dice quello, puoi dire quello che figa! Vuoi. Vagina! Parliamo di vagina, vulva e altri modi vari. Manco Pacapa mi sembrava uno scherzo così ma sapido. Figa, guarda quella che figa, o parliamo di vagina proprio? Proprio quella. Quindi il ginecologo sarà... No, non ginecologico, volgare. Volgare, proprio... Ecco, abbiamo anche insegnato al nostro pubblico da casa. Martina è corrucciata. Quindi, come si dice Martina in cinese? Non conosco la parola volgare, so che buco in quel senso significa, si dice pi. Pi, pi, pi. Allora io vi do un consiglio, pi. Chi va in Giappone non si adattasse di dire wamank, non vi azzardate, no, altrimenti vi uccidono sul posto. Stessa cosa vale per il cinese, come si dice? O quantomeno. Quindi, pi, quantomeno. Ancora più facile essere fraintesi. Pi, ancora più. Se non vi uccidono, quantomeno facete una figura in merda. No, come minimo. Ma di solito è associato alla madre dell'altro, insulto. Ah, ecco, ancora peggio. Ah, quindi proprio mamma mia. Proprio, mamma età, proprio. Quindi state attenti perché potete non abbiamo, abbiamo capito il piego, la piega della puntata. Sì, bellissima, bellissima. Torniamo un po' più seri e cominciamo un po' con i vari ospiti. Cominciamo con Manuele. Manuele, dici un po' chi sei, come mai sei andato lì. Allora, buonasera a tutti, mi chiamo Emanuele Granatello, sono emigrato in Giappone 4 anni fa, subito dopo una laurea in lettere e filosofie con specializzazione in inglese e giapponese, lingua e letteratura quadriennale. Sono ancora uno dei nonni vecchio ordinamento, l'ultimo dei miei cani, no, dei miei cani, no, chi era? E quindi niente, ormai vivo lì da 4 anni, un anno ho studiato giapponese e gli altri 3 ho fatto finta di lavorare. Finta di lavorare. Emanuele, dalla chat subito delle persone secondo me che ti vogliono molto bene, ecco. Dicono Emanuele Sacchetto, questo è Massi. Vabbè, allora, prima di tutto sì, dobbiamo salutare. Certamente. Un grande assente, un assente eccellente, una persona senza la quale le precedenti edizioni non sarebbero mai andate in porto. In porto, che è Massi Cadenti, anche Massimo Piscopo, che è uno storico delle chat IRC napoletane e anche un estimatore delle cassette della Gasoft e gli 64 isti. Lui che... scrive Manuele Sacchetto, quindi non dubito che sia giapponese lui. No, non penso. Credo. No. Ah, vabbè, allora invece una persona che si firma innominabile. Ah, l'innominabile. Dice che granate Tannarombo. Questo è un detto giapponese famosissimo. Chiaro. Questo è sì, un famoso detto giapponese. Io l'ho sentito un sacco di volte. Partiamo con Martina, anche tu dici un po' come mai questa esperienza cinese, diciamo così? Sì, io parto dal suo stesso istituto universitario, cioè l'orientale, solo che io sono invece quella, la sessione successiva, il 3+2. La giovane. Sì, molto, oramai un bel po', e mi sto laureando alla specialistica e sono stato un anno in Cina e spero di partire a settembre un altro anno. Ah, perfetto, l'abbiamo conosciuti. E io voglio farvi innanzitutto una domanda a tutte e due, perché la prima cosa che mi viene in mente, la prima cosa da italiani che vi ha colpito in queste terre così diverse da noi. Cominciamo con Manuele. Emanuele, scusami. Adesso io me ne posso anche andare licenziato sul posto. Però non fa niente. La prima cosa che mi ha colpito. Sì. Vabbè, la pulizia e la gentilezza o quasi ossessiva, anzi direi proprio ossessiva della gente, e anche una certa somiglianza, io da buon otaku, con alcuni scenari che si possono vedere soprattutto nei videogiochi giapponesi, perché essendo una cultura che è pregna di non solo ideogrammi ma anche disegnini pupazzetti, ovunque vai, in qualsiasi contesto, non solo in contesto ludico, sì, ma anche, non so, lavoro in corso, il pupazzetto dell'omino che ti fa l'inchino, scusa. E quindi è una cosa che mi... cioè è una pazzella, è tutta una pazzella. Tutto un manga praticamente. Tutto un manga, almeno questa è la prima impressione, per carità. Ecco. Tu, infatti, questo ho chiesto da italiano, la prima impressione. Poi dopo diviene anche parte di te, se sei 4 anni non ci fai più caso. No, vabbè, poi... Tu? A me è un po' meno aulica, un po' meno colta. La puzza è incredibile. Quando sono arrivata spero che non ci ascoltino cinesi, perché no, qua c'è proprio... era agosto, là sono un bel po', diciamo, penso 16 milioni a Pechino, e 45 gradi all'ombra, immagino. Sai che bel ambientino, mi sta bene. No, si stava malissimo, ad agosto si stava Dimmi malissimo. Che c'è un odore di ristorante cinese ovunque. Anche il mio pensiero. No, vabbè, poi è cambiata. Dopo le Olimpiadi è cambiata molto, era molto più pulita. Però quello che ti colpisce è la quantità di persone, il traffico costante a qualsiasi ora del giorno o della notte, e gli spazi. Cioè la strada più piccola è a 4 corsie. Ma io so che non ci sono semafori. No, ce ne sono milioni di semafori. Sì, però sapevo che non c'è un senso. Cioè, non è rispettato benissimo il senso. Cioè, nel traffico mi stai dicendo cinese. Che praticamente lì vanno proprio. Io ho visto certe foto di ingorghi totali. Certo. Io camminavo a piedi in un ingorgo, penso che fossero 5-6 corsie, in cui gli autobus erano fermi al centro del... due autobus di faccia, fermi al centro di un incrocio. Questo... la gente che camminava a piedi con le bici, cioè, io ho tra letto loro, che ci sono i semafori, ma non sono sono solo per andare e andate. Però se c'è la strada a destra e strada a sinistra, non è disciplinata e quindi si crea il classico intaso totale. Vabbè, insomma, vedi, siamo ci sono abituati. Sì, noi napoletani siamo abituati. Però meglio dirlo, non si sa mai. Abbiamo Misuzu, io avrò difficoltà. Tu dove sei nata? Ce lo vuoi dire? Dopo il mare Mastaka. Nella prefettura di Aichi, vicino a Nagoya. Lei tu lavori, cosa fai? Ano shigoto wa? Allora, lei fa la traduttrice dall'inglese al giapponese, alle volte anche dal giapponese all'inglese, e poi lavora anche presso l'università di Nagoya come segretaria, insomma, all'interno dell'amministrazione. Ah, perfetto. Tu hai qualche domanda da fare? O continuo io a raffica? Io volevo chiedere anche ad Antonio. Ah, Antonio. Sì, infatti. Visto che comunque sono abbastanza Emanuele Dati. Conosco Emanuele da molto e so che posso, come dire, chiedergli. In effetti è stato sempre molto interessante sentire dei tuoi, diciamo, dei diversi lavori e delle diverse esperienze che hai avuto nel corso della tua esperienza in Giappone. Ragazzi, soprattutto agli ospiti, parlare un po' più vicino al microfono, sì. Perché dalla ok, no, e non avendo le... ok, non si sente. Ripeto, insomma, puoi parlarci dei tuoi lavori, di quello che ti è capitato di fare. So, anzi, poi che negli ultimi tempi ho avuto una proposta particolarmente, diciamo, divertente, una interessante. Una proposta indecente. Ecco. Allora, qua mi interessa. Prima di tutto, vabbè, noi della Campania siamo in qualche modo avvantaggiati perché l'arte di arrangiarsi è praticamente genetica, e quindi all'inizio, se non si riesce a trovare lavoro, si inizia anche con i ristoranti. Io part time ho lavorato nei ristoranti, vi posso assicurare che il peggior lavoro che in Giappone si può fare è proprio lavorare in un ristorante, perché nella maggior parte dei casi, e l'ho fatto anche in Italia quando ero studente, nella maggior parte dei casi è praticamente guardare le porte dell'inferno. Sì, perché ci sono dei turni infiniti. Perché il turno inizia alle 9, soprattutto nei ristoranti piccolini, alle 9 con la pulizia del locale, eccetera, eccetera. Poi iniziano a venire i clienti. In Giappone si mangia prima, quindi già a mezzogiorno, alle 11 già il locale apre. Come pensionato? Sì. Arrivano a mezzogiorno e poi vabbè se ne vanno e si pulisce il locale. Ci sono 2-3 ore di pausa che di solito si passano al locale, poi si riprende nel pomeriggio sera e si finisce finché il locale sfiancante non è tanto. Poi ci sono anche le giornate sfiancanti dove c'è la mole di lavoro è grande, però è più che altro che non si ha il tempo libero, perché dopo 12 ore che sei stato in un posto, anche se non hai fatto niente, sei stanchissimo. Vogliamo sfatare qualche mito che in Giappone si mangiano delle cose che non riusciamo, che non esiste. Cioè, il mito che si mangiano i cani. No, in Giappone non si mangiano i cani. Però in Giappone. Questa è una cosa non giusta. Perché se tu dici a un cinese chi mangia i cani, dice il giapponese. Se lo chiedi al giapponese, lui dice il cinese. No, io penso che il cinese ne vada anche abbastanza. Ah, sì? Allora dopo te lo chiedo. Il cinese si vanta del cane. In Giappone, però, resiste ancora in alcune zone, soprattutto di campagna, di montagna. Il consumo di alcuni tipi di insetti. Ah, ecco. La cosa più strana che hai mangiato? Come sei trovato con la cucina, diciamo? La così? Cucina giapponese io non ne potrei mai fare a meno. Sei rimasto? No. Però la cosa più strana che ho mangiato è il basashi, cioè il sashimi di carne di cavallo cruda. Carne di cavallo, e anche il fegato di pollo crudo, che è una cosa disgustosa, ecco. E non riesco a mangiare. Quando vieni qua, naturalmente non mangi giapponese o vai a cercare i posti? No. Come quando vado in Giappone, da me mi cucino italiano perché sono pigro, però perché gli ingredienti non mancano in Giappone, almeno delle cose base. Però quando vado fuori mangio giapponese, è difficile che vada a mangiare un ristorante italiano. Ok, non ti manca il... Ah, ma tanto mangi a casa, hai detto, quindi quelle volte che vuoi mangiarti... Ecco, ma... invece vogliamo chiedere... Cosa vogliamo chiedermi su? Ben. Non lo so, invece cosa ti piace, quale preferisci, la cucina italiana o la cucina giapponese? Dochi ga oishi, itaria ryurika, nihon ryuri, dochi ga ii? Oishi. Dakara... Falla avvicinare un po'. Le piacciono tutte e due, quindi scegliere non saprei, però se, essendo esterofila, le piace molto la cucina italiana. E questo italiana. È bello, un italiano che preferisce la giapponese e una giapponese che preferisce l'italiana. Ah, no, io non ho detto che preferisco le giapponese. Però non potessi farne a meno. No, come non potrei però fare a meno neanche di quelle italiane. Ecco, a tal proposito, io ricordo... Mischiarle è pericoloso. Sì, no, no, vabbè, quasi mai, no, non si mischia. Ma ricordo che tu lavoravi proprio in un ristorante, diciamo... Italiano. Hai lavorato, diciamo, in un ristorante proprio italiano. Sì, ho lavorato in un ristorante italiano, però magari se facciamo parlare anche lei, perché sennò... No, vabbè. Prendo io tutta... Vabbè, allora faccio io la stessa domanda a Martina. Martina, sì. Tu col cibo cinese, come ti sei trovata? Sono pronta a rispondere a tutte le domande su cavalli, gatti, perché cani. Perché tu hai mangiato tutto questo? No, però so che lo fanno. Sono rimasta piuttosto impressionata. Sei sicura di non aver mangiato? No, mai essere sicuro? Questo no, non sono sicura, può essere. La cosa più lo stesso dubbio ci appanai anche a noi, non ti preoccupare, quello. Quando andiamo a mangiare cinese qui. Abbiamo Guarda, lo stesso lo dubbio. So. Gatto con le patate, il famoso gatto con le patate. Abbiamo lo stesso dubbio. Loro i piatti non li chiamano solitamente con gli ingredienti che usano. Li chiamano con dei nomi poetici, tipo fiore di loto nel lago autunnale. Che poi è tipo pollo con patate. Che però poi va magari bene è pollo con patate. Però vabbè, ristoranti... un po' come la cucina di quartiere Marchesi che fa. Però a me piace questa cosa. Eh sì, ma cioè... l'abbiamo portata anche noi. Anche noi c'è cioè, quartiere Marchesi che chiama soffritto di. E poi in verità è petto di pollo, capito? Okay. Dimmi un po'. No, e se vai in un ristorante anche per stranieri ti mettono anche gli ingredienti in cinese, quindi tu puoi capire se almeno l'animale qual è. Se poi parli di solito... cinese, però. Se parli cinese. Altrimenti si rifiutano gatti alla Bigazzi proprio con la palla. E la cosa più strana che hai mangiato? Lingua di maiale, immagino. Buona. Vabbè, sicuramente. Ma me ne sono accorta poi perché era tipo a pezzi. Poi ho detto perché c'era il maiale morto lì vicino. Perché c'era un maiale senza lingua, che non riusciva a parlare. C'era un maiale con difficoltà a parlare e tu hai fatto 2 più 2. No, più che altro le papille gustative sono un po' dure al masticare. Questa cosa mi fa quasi vomitare. Che tu praticamente hai avuto. E che ti devo dire? Hai baciato un maiale. Sei stato splendido, veramente. Però loro, ho capito, non si vergognano di esporre i loro animali morti. Per esempio, nei ristoranti seri, cioè quelli proprio cinesi e non quelli fatti apposta per gli occidentali, espongono proprio gli animali morti appesi, tipo l'oca appesa, il pesce vivo, te lo pescano, magari te lo uccidono davanti, l'oca la spennano. Gli piace far vedere al cliente di come si ammazza l'animale e tutto il resto. Sono abbastanza sadici come. Sai che bella immagine. Ma no, perché almeno così si capisce che è fresco, no? Cosa che qua certo. Non fanno e quindi abbiamo. Una volta si faceva, però non molto tempo fa, si faceva in alcuni sì. Penso che nei ristoranti più importanti. In alcuni il pesce si fa ancora. Ma anche in Giappone, nei ristoranti più importanti, quelli dove bisogna cacciare le carte di 100 euro. Come si dice dalle mie parti. Poi chiederemo anche il costo dell'equivalente in yen. E le carte di 10.000 yen. E praticamente. Sempre carte sono. E il pesce pescato, preso dall'acquario così e poi sfilettato davanti vivo. Cioè per il piacere, per la gioia. Per far vedere di, la freschezza. Per far divertire anche i bambini comunque. Che del WWF. Così imparano. Ti faccio vedere come ti uccido il pesciolino. Guarda, e poi te lo mangi. Poi dopo lo vai pure a comprare, lo porti a casa, tutto a posto. Tue esperienze lavorative? Che allora, hai fatto lì? Io sono stata là per studiare, quindi tutto quello che ho fatto in realtà è illegale. Però perfetto. Bellissimo. Vabbè, non diciamo è che noi siamo non è un no, problema. No, vabbè, ma tranquillo, tanto comunque i problemi sono loro perché insomma che la droga l'hai lasciata tutta lì. No, ma che cioè, droga? Spacciali. Magari non circola niente. Ho saputo tipo la leggenda che uno è stato trovato con un milligrammo di erba, è stato messo in carcere per 5 anni. Questa è una cose splendide per cui evitiamo. No, una volta mi hanno assunto per fare la voce. Parlando di droga. Di un... questo è bello, la voce. La voce per un dizionario italiano-cinese molto probabilmente, oppure una macchina fotografica. Ma il bello è che devo dire delle cose assurde. Cioè? A un certo punto ti apparivano queste parole davanti e tu in qualità di italiano le devi leggere. Sì. E tu, tipo, autunno. Vabbè, tu immagini d'autunno una foto un po' più scura. Sì. Vabbè. Neve, vabbè, tranquillo. Il bianco della neve. Poi Totti. La foto Totti, insomma, è carina. Come sarà la foto Totti? Poi, col pollice in bocca. Forse sarà la foto sportiva. Magari e loro. Noi ci chiedevamo, forse non è una macchina fotografica. Forse è una parola che non conosci. Qualcosa di più, non so, ti chiedo. Totti. Poi personaggi strani, tipo Luca Cordero di Montezemolo. Mamma mia. Luca Cordero di Montezemolo è difficile che sia una parola cinese che non conosci. No, anche perché è un nome di merda. Totti. È vero, ma Luca Cordero di Montezemolo. Chissà che foto era Luca Cordero di Montezemolo. Tu c'hai una macchina fotografica, che opzione hai messo? Negativo, sepia? No, Luca Cordero di Montezemolo. Bisognerebbe indagare, perché questa è una cosa. Ma tu devi dircelo però, perché ci sarà qualcuno in Cina che ha acquistato questa cosa dove c'è la tua voce che dici Luca Cordero di Montezemolo. Cioè, dobbiamo saperlo. Allora, no, sicuramente c'è, però non penso che fosse proprio la parola intera. Penso che loro registrassero queste parole per poi frammentarle per avere i suoni italiani da far riconoscere una volta. A riconoscimento vocale, capito? Mamma mia, infatti, cosa di pazzi. Ma sono pazzi. Perché sì. Luca Cordero di Montezemolo contiene praticamente credo tutto l'alfabeto italiano. E poi se la dici R, zio, ragazzi. Luca Cordero di Montezemolo contiene anche la Z, è finita lì, stiamo a posto. Stavi dicendo? No, la R penso che sia l'ostacolo più grande per un cinese. Loro proprio niente. Io non voglio fare il classico che sfrutta i cinesi, ma qua sono sono anni. No, ma loro la sanno fare. Siamo da anni che il cinese si fa plego. Ma proprio da decenni. No, però non è. Però questa non è un'offesa, nel senso che quando vai nei ristoranti cinesi parlano così. È vero, è vero. Però è diciamo che non è nel caso, capito? Plego. Ci saranno 8 milioni di barzellette su sto plego. Sicuramente. Però dai, cioè parlano effettivamente così, no? Quando parli italiano si provano. Ma anche nella lingua cinese la R non c'è. No, in cinese la R non esiste. Ah, in cinese la R non esiste. No, giapponese. E invece in giapponese. Nihongo de aruto al no. Chigai ga arimasu ka? Non c'è. Ah, ecco, quindi è come se io non avessi drammatico. Una lettera e quindi per arrangiarmi faccio e capito che non ce l'ho fisicamente, quindi, non ce l'ho. Quindi alcune volte la stessa parola, certi giapponesi la pronunciano più R e altri la pronunciano proprio L, tipo io ricordo Renraku che vuol dire contatto. E alcuni ho sentito dire proprio Lennaku. Ed altri dicono Renraku. E si dice Renraku o Lennaku. Quindi non si offendono se li prendi in giro che fanno plego. Vabbè, no, non se ce l'hanno. Li prendi in giro, sì. Se li prendi per il culo, magari. Vedo, così con le mani. Vedo insomma, che state molto attenti. Sto scherzando. Assolutamente non prendono mai in giro cose del genere. Anche perché. Certo. No, perché? Che hai fatto. Ma questa Martina, cioè. No, Martina è venuta qui con una presunzione. Quando è che devi tornare in Cina? Quando è? Perché potresti devi laurearti. Saluti vaffancina, tra l'altro. Martina, proprio. Antonio, altre domande per i nostri ospiti? Sì, no, allora stavamo parlando insomma delle esperienze con il ristorante italiano. Ero curioso di sapere diciamo cosa si diciamo riescono a portare a spacciare per cibo italiano. Io ne ho mille e una di esperienze, però vi dico un'esperienza che ho avuto poco prima di venire in Italia. Dimmi. Con degli amici, anzi dei miei alunni, perché io ho anche insegnato italiano. E come potete notare dalla quantità di errori di grammatica che ho fatto finora, è proprio sono la persona adatta all'uomo. Lo impari proprio bene, diciamo. Lo impari giambarato italiano e giapponese. Lo parli benissimo, dall'alto, complimenti. Grazie. Il giapponese? Sì. Se tu dici qualcosa in giapponese, io ti rispondo la prima a destra, quindi sappilo. Quindi io quello volevo dire. Ah, okay. Quindi siamo andati a un bar, diciamo, toscano, anche infatti si chiama Roma. Bar toscano Roma è un classico. Sì, mi sembra carità. La coerenza di un mio amico. C'è un problema geografico clamoroso. Di un mio. Forse è leghista. Dici. Di un amico. Che tra l'altro si mangia anche discretamente alcune cose. Fa. Per esempio, le patate toscane erano ottime. E anche il bollito non era male. Però avevo visto un po' quella pasta che aveva una faccia che non mi piaceva, tipo la carbonara con la crema sopra, oppure gli spaghetti col sugo che navigavano nell'olio. Eh beh. Allora io ho detto, però sai, dopo la seconda, terza bottiglia di vino, ho detto no, voglio la pasta. Qualsiasi cosa diventa buono, ovviamente. No, voglio, no, diventa buono no. Scusa, sai fare la pasta ai quattro formaggi? Aia, pure tu. Cavolo, non ci vuole niente. C'ho solo il gorgonzola, meglio, però niente olio. Va bene, oh, mi raccomando, il burro va bene, il burro sì, l'olio no. Torna dopo un po' di tempo, porta questa pasta. Prima di tutto, con il prezzemolo sopra. Ora io, alcuni dicono che in realtà ci voglia. Io non l'ho mai visto per il prezzemolo sui... Vabbè, però spaccare il capello in quattro, dai. Per il prezzemolo. Dai, il prezzemolo. C'era solo il gorgonzola, già è diventata la pasta a un formaggio. Lasciamo perdere il prezzemolo. La prendo... Vedevo queste... Hai fatto un gesto che è strano, la prendo per una pasta, la prendo. Eh no, con le bacchette, avevo le bacchette. Ecco, vedi, ecco. Io che non sono, non potevo capire. Noi facciamo la prendo, facendo il gesto della forchetta, e loro invece la prendo. C'erano anche le forchette, però in quel momento avevo le bacchette in mano che stavo spizzicando qualcos'altro. E niente, praticamente escono queste cosine bianche semitrasparenti. Ed era cipolla. Fermati, che hai fatto? Ma perché questa cosa, se la fai in Italia ti arrestano tutti, gli amici a ridere, ovviamente. No, sto scherzando, però comunque quando fai la pasta potevi dire per noi la cipolla è sacra. Potevi dirlo, in effetti si tanto e che qui... te ne frega. Oppure vabbè, tipo la pasta si mangia anche nei normali caffè. Okay, sì, nel caffè si mangia, però la pasta che fanno è una pasta prima di tutto che si scuoce, basta guardarla che si scuoce, neanche metterla nell'acqua. Ma vale della pasta o dei noodles? No, proprio della pasta. La pasta, però è pasta di qualità infima, quella che si compra nei normali ristoranti. Per carità, non costa quella buona, non costa molto, però devi saperla scegliere. Certo. Loro, non avendo quella cultura, prendono... E poi ovviamente con i condimenti più strani. Oppure vabbè, in alcuni posti la pizza con l'ananas. Un classico. È un classico. Ragazzi, dalla chat chiedevano, ma in Cina chi vuole usare internet come fa? Ah, fa molto prima di quanto si possa fare in Italia, perché in quasi tutti i bar, perché ce ne sono, li hanno aperti apposta per gli occidentali, adesso è pieno di cinesi, è sempre wireless, tutti connetti là. Penso che benissimo. Si riferiscano alla censura, credo. La censura di Google, questa vaga idea. No, la censura c'è su alcuni siti, per esempio Facebook e YouTube. Noi non potevamo vedere YouTube, infatti era un dramma. YouTube, cioè... Era un dramma, no, è un ovvio, attimo, un attimo, perché io su... voglio dire una cosa, perché loro oscurano YouTube da là. Però poi invece qua, io ho visto certi video di provenienza, diciamo così, dell'estremo oriente, che c'è di tutto. Veramente di tutto, è che noi abbiamo un'idea competente. Se guardassimo solo YouTube, chiedono quindi, no, vero, zero Facebook e zero YouTube. No, questo è a Pechino, perché a Pechino, okay, c'è più controllo. Però la Cina è enorme, quindi io penso che già da Shanghai sia facilissimo connettersi a questi tu siti. Scendi Shanghai, poi ci sono i un po' a destra. La prima uscita dopo il casello funziona Facebook. Poi nelle città più piccole non c'è il controllo che c'è nelle città grandi. Poi ci sono un sacco di programmi per connettersi comunque. Sta ragazza sa cose strane. Sì, ma tu che giro fai in Cina? Oh? Bisogna sopravvivere. Qualcosa. Ma si ha chiamerà veramente qualcosa. Martina Caschera? Non sono sicuro. Ha combinato qualcosa. La Matari di noi altri. Allora, io devo fare una domanda ad Emanuele. Emanuele, io ho la visione del Giappone, ovviamente, da classico ragazzo degli anni 90, con i manga. Allora, ci sono cresciuto, ci ho imparato un sacco di cose. Innanzitutto, secondo me... Che ci hai imparato? Però. Tutto, perché da Lady Oscar impari la sessualità. Una cosa è il calcio. Cosa? Proprio da Lady Oscar. Sei proprio inguaiato. No, l'apertura alla sessualità. Hai dei problemi. Sì, l'apertura alla sessualità. O la dissimulazione. Ho imparato che esistono le troie, tipo con Giorgi. Ho imparato che esistono troie. Quella si faceva un fratello sì, un fratello no. Quindi ho imparato varie cose. Manga dei Hiroin Nakoto. E soprattutto che ho conosciuto la mia sessualità con la Mu. L'ho conosciuta con la Mu. Lam Chande. L'hai conosciuta? Io sono molto più americano sotto questo punto di vista. Nel senso, ero più su Baywatch. Meno per i cartoni animati. Vabbè, però. Più per la carne. Cioè, Ollie e Benji, mi ricordo benissimo. Tutti che hai imparato lo sport con Ollie. Tra l'altro, infatti. E anche la mondo della droga. Voglio dire una cosa. Molto particolare. Chiedono se hai imparato a giocare a pallone da Ollie e Benji. Come no? Infatti io sono ancora che corro in mezzo al campo e spero che la palla diventa ovale. Però non succede mai. se ho un flashback come alle Benji, centinaia di chilometri sì. dopo. Infatti gioco sul Vomero, tipo collina appositamente. Quella classica collina del campo di calcio. No, ti volevo chiedere, innanzitutto, se ci faccio caso, molti cartoni, la maggior parte dei manga sono improntati molti sullo sport. La maggior parte, molti sullo sport, molti invece sulle arti marziali, la lotta, diciamo così. E poi c'è quella fascia, diciamo, che si avvicina anche al vedo non vedo, tipo la Mu, cose del genere. Ma questo stai parlando dell'ondata degli anni 80-90, ora il mondo dei manga è totalmente diverso, per certe volte, per certi versi migliore, per certi versi peggiore, e poi ora guardano molto all'Occidente perché hanno visto che è un prodotto esportabile, quindi per esempio è uscito molto tempo fa Afro Samurai, oppure Kaiba, che vi consiglio. Afro Samurai? Sì, lo so, è una bella immagine. No, aspetta, che cos'è Afro Samurai? È un manga scritto anche in collaborazione con Samuel Jackson, a quel che so. Non ci credo. Quindi c'è uno che assomiglia a Samuel Jackson vestito da samurai, mi stai dicendo? Sì. Sto facendo una ricerca subito. Tu fai una ricerca, io farò un'altra domanda. Una caratteristica dei manga, tutti i personaggi, questa vuoi fare una domanda magari anche a Misuzo. Tutti i personaggi hanno, sono disegnati non con gli occhi a mandorla, ma gli occhi molto occidentali. Mangano Shujinko nato, hanno Hosoi ne shite nai, shite. Come mai? Perché io ho letto che nan do shite desu ka? Naze so desu ka? Tabun ookii ime ni akogarete iru nda to omou. Allora, perché probabilmente i giapponesi, ai giapponesi piacciono gli occhi grandi. E no, perché io infatti una cosa che ho letto, che per esempio molte donne carina si operano agli occhi per togliere quel tratto yon asiatico. Hanno Nihon de Josei Ui Ui no wa hanno chotto shujutsu shite hanno ma me ga pachitto suru you ni hanno ma sono shujutsu suru kara honto desu ka? Suru shito mo iru to omoimasu. Ci sono delle persone che lo fanno, però lei dice ma non credo che siano così tanti. Io su internet, facendo la ricerca, ho notato che è una delle cose di cui ho letto di più, solo netto per questo. De kenza koshite hanno ma Nihon de tabu ichiban oi toka oi desu. Lei dice che in Corea ne sono tanti. Ah, in Corea, perché io forse so che questa voglia di portare l'Occidente, diciamo così. Nazze kotteuto hanno tabun hanno ma nihonjin toka ma asiajin. Le immagini di Afro Samurai fanno effettivamente ridere. Samurai con i capelli afro. Bellissimo. Tutto così ve lo dico per trattenervi un po'. Obe ni akugarete no kara. Sì, quindi praticamente sì, probabilmente perché c'è il fascino dell'Occidente. C'è il fascino dell'Occidente. Come noi, in un certo senso, un po' di fascino dell'estremo oriente ce l'abbiamo, loro stupidamente pensano a noi. In Cina si rifanno il naso. In Cina si rifanno il naso. Attenzione che c'è un'altra. Parliamo di estetica. E qualche treccina. No, facciamo solo naso. Naso e vabbè, i capelli. Si fanno le permanenti che sono assolutamente fuori da. Vabbè, ma in Giappone fanno di peggio. Fanno molto di peggio in Giappone. Fuzia cosa. Io ho sempre in mente quel classico vecchio che c'è in quasi tutti i film giapponesi o cinesi, con la barba lunga lunga, con una treccina lunghissima, e fa sempre così. Vabbè, ma quello è l'incarnazione degli ideali confuciani. Ecco, lo vedi? Dicendo cretinate io, lui dice cose intelligenti. Questa cosa è perfetta. No, questa hai detto una cretinata ora. Perché? Perché hai detto che io dico cose intelligenti. Vabbè, però adesso io so che quando vedo un personaggio del genere con la treccina a posto della barba è perché è un ideale confuciano. No, è praticamente il vecchio che assomiglia a Confucio, no? È il vecchio saggio, o il vecchio che assomiglia a qualche saggio taoista anche. Poi erano solo due saggi che sono diversi e complementari, ma lei, se, avendo studiato cinese, ne sa molto più di me su questi fatti. Allora, io voglio prima riprendere il discorso, quindi anche in Cina se le fanno il naso sempre per portarsi verso l'Occidente? Sì, ma perché come ce l'hanno sto naso cinese? Piccolo. Piccolo. Piccolo, una mia amica, no, forse loro di meno. E quindi fanno un qualcosa per, si fanno per ingrandirlo. Un grosso, tipo, alla si fanno americana. Una cosa ci aiuterà anche questa volta. Sì. Internet, cerco su Google qualche immagine di qualche naso cinese. Quindi anche loro hanno l'esigenza, hanno la voglia di non so come si dice, comunque portarsi verso l'Occidente. Occidentalizzarsi. Sì. Grazie, mi ero un attimo imbloccato. Omologarsi con l'Occidente. Cioè, come se noi, che ne ma so, vogliamo farci gli occhi svedesi. Ci sono parecchie ragazze che si fanno un po' gli occhietti a mandorla. Ci sono molte donne che lo fanno. Questa cosa le donne a forza di tirarsi veramente fanno certi occhi a poi ridicoli ovviamente. E certo, perché io sono penso contrario a togliere questi tratti tu saresti così. Bellissimo. Sì, sì, come no. Non mi guardare con questi occhioni perché rischio di baciarti. Io ne ho visto un paio con il naso di fatto, però è evidente perché è proprio perché inappropriato alla. Cioè, c'è il naso faccia, di Samuel Jackson sul cinese. Non è... E poi oppure le vedi in giro per la Cina con questi cerotti enormi e si capisce che se lo sono rifatti da poco. E ovviamente l'hanno ingrandito perché loro ce l'hanno piccolo di base. Io non l'ho mai sentito. Questo questa cosa. Allora, io l'ho detto che Martina ha fatto cose strane. Martina. Voi però no. Pure tu ci devi un passaggio, inciampi praticamente in un cratere perché c'è un luogo comune che lasciami a questo punto affrontare. E a questo punto dobbiamo affrontare. Sì, perché se apro Samuel. Ah, tra l'altro c'è un'altra domanda. Allora, Martina, noi sappiamo che nella zona orientale, diciamo che noi possiamo guardarli un po' dall'alto in basso per quanto riguarda la protuberanza, diciamo, se le dimensioni pubbliche, diciamo. Ma perché chiedete a me? E vabbè, senso, mi sembra che qui non c'è nessun altro che è andato in Cina. Guarda quello che ha detto che ce l'hanno piccolo. Consumatore finale. Consumatore finale. Scusate, satira. No, perché tu hai detto ce l'hanno finale. Va bene, quindi non puoi dirlo. Per esperienza diretta, no, però ho esperienze traverse di amiche che hanno raccontato. E che hanno detto queste tue amiche? È una tragedia. Avallano la teoria. È una tragedia. In Giappone, ma tu, cioè. Importante è saperlo usare. Si dice. Sì, vabbè, questo lo dicono chi ce l'ha piccolo, ragazzi. Vediamo questo pezzo. È un classico. Te l'ho servita così. Sì. A te non te lo voglio chiedere se tu hai mai visto. No, però essendo consumatore di profilattici, può capitare che ci sono quelli. Stai stretto. Stretti. Cose di pazzi. E afro samurai. No, non cose di pazzi. Non cose di pazzi. Devi cambiare una consonante. Ah, giusto. Sì. E ovviamente questo all'italiano fa piacere perché ti senti anche abbastanza. Non me ne può sbattere no, di meno. Va bene. Però, personalmente non sono quel tipo di italiano. Mi piace il termine sbattere, che è perfetto. Se siamo lì, giriamo. Ma secondo, lì intorno, secondo voi, afro samurai è più dalla parte di qua? O più dalla parte di là? Cioè, secondo voi. Vabbè, secondo me se afro samurai ce l'avrà, allora, cioè, questo... non vogliamo no, sapere. Ci sono anche le scene di sesso, se non sbaglio. Io questo fumetto non riesco a capirlo. Lui che cos'è? Cioè, lui è un samurai, però di colore. Di colore. Cioè, e che già c'è nero, qualcosa che non nero va. Proprio, nero. Nero, negro, vabbè. Cioè... No, ragazzi, si dice afroamericano. No, nel senso... Ma non capire, no. Genitori coppia mista oppure e che ne sa vabbè, Alessio, ho capito, però tu però... pure tu yeah. Ma vediti la serie allora facciamo no, superficiali no hai ragione in effetti cercare di capire come mai un afroamericano sia vestito come un samurai, sia un samurai in effetti se lo vedessi mi verrebbe un po' il dubbio no però... non è che è vestito come è samurai cioè combatte fa cioè ammazzate è forte. È samurai. Antonio lo conosce. Antonio no, ma molto comunque non è il oltre. Primo perché un bellissimo film di Jarmusch, Ghost Dog, il protagonista che è Whittaker, non ricordo il nome, è sì. Un ragazzo sì, di colore. Sì, l'ho visto. Questo film è un samurai, segue il codice del Bushido, è un film che vi consiglio. Tra l'altro forse è uno dei migliori di Jarmusch. Io l'ho visto, non sapevo che era di Jarmusch, però l'ho visto e mi è piaciuto, sì, è vero. È vero, Whittaker sarebbe quello che ha fatto anche sì, l'ultimo re di Scozia. Quello lì che ha fatto anche Platoon. Platoon, esatto, ha vinto il premio Oscar, però con l'ultimo re di Scozia, se non sbaglio. E niente, quindi abbiamo anche fatto la parte sessuale che era interessante. E tra l'altro era una parte che mi preoccupava un po'. Ci avevi pensato già? Già l'abbiamo scansata. Vabbè, l'abbiamo detta, non lasciamo così. Una domanda qua, speriamo di no. No, ci permetteremo mai. E ci lasciamo No. Scusa. Martina, però, io starei attenta, perché tu hai fatto tutto da sola. Ci hai detto delle cose assurde come se tu la fossi. Hai fatto tutto da sola. Come se tu la come se tu la ferma ancora. La regina della criminalità. Hai detto delle cose assurde, hai fatto delle cose contro la legge. Purtroppo funziona così, in radio ogni tanto si prende uno da mettere, diciamo... così da prendere continuo. In giro. Questa volta tocca a te. Abbiamo scelto la Cina, non me ne vogliono, però vabbè. Io voglio chiedere qualcosa riguardo uno sport che credo che sia quello nazionale in Giappone. Non è uno sport. Non è uno sport. Ecco, questa è la cosa più interessante. Perché io lo vedo come di merda uno. Vabbè, io sono giapponese, quindi occhi a mano. Ti devo far vedere in mezzo al cavallo, non sono giapponese. Però dai. Allora, il sumo. Oh, o sumo no shitsumonis. Io so che il sumo è molto spirituale, ecco perché non è uno sport. C'è dietro tutto un mondo. Vabbè, io non sono un esperto di sumo. Non sono così kuashi come si dice in Giappone. Però so che loro comunque, i lottatori di sumo, sono delle... diciamo dovrebbero essere l'incarnazione di virtù shintoiste. Sì, infatti è c'è... uno prima di salire sul... tra virgolette, non si chiama ring. O sumono ring nanto io. O sumono dopo lo caro. Dohyo. Prima di salire sul Dohyo, i lottatori prendono una manciata di sale, sì, e la lanciano in alto per purificare. Quindi non è uno sport. Sì, quella è la cosa affascinante. È più vicino infatti a qualcosa di spirituale. Poi, per carità, c'è il tifo, c'è l'agonismo, c'è tutto quello. C'è anche la componente, diciamo, prettamente sportiva agonistica, però non è solo quello. Sì, è quello che mi affascinava in effetti, perché ci sono dei rituali. Tra l'altro, visto dal vivo è bellissimo. Visto in TV, dopo, personalmente dopo 5 minuti mi scoccio. Io l'ho visto anche in TV, devo essere sincero. Dal vivo, visto dal vivo, invece è un'esperienza che tra l'altro non costa tantissimo. Se andate in Giappone, ora anzi, proprio dove abito a Nagoya, dovrebbe o essere finito da poco, essere in corso il la parte estiva dei campionati. C'è sorta di mondiale di sumo. Il mondiale nazionale, perché non c'è stato mondiale. Non abbiamo uno che fa sumo in Italia. Anche se dicevi che però c'erano ci sono altre nazionalità fortissime. Sì. Mongoli, bulgari, uno i famosi. Non l'avrei mai detto che i bulgari sono bravi dei più sumo. Famosi ultimamente era Sashiryu. Lo vediamo, lo cerchiamo. Sashoryu. A Sashoryu, che io l'ho visto, io so, posso anche spararmi il pezzo, perché l'ho visto su Discovery Channel la storia di questa Sashoryu. L'ho scritto così, che come è un veniva mongolo, ed è venuto fortissimo fuori un manga. E tu scrivi sì, così a Sashoryu, non è che mo puoi scrivere come si pronuncia. No, fallo no, scrivere a lei, è... a lui. Vabbè, adesso non ci blocchiamo. Non fa niente. Dimmi un attimo, parliamo sempre dello sport. Lo sport nazionale, cioè quello che loro. Nihonno National Sports. Non è Takeshi Castle, purtroppo. Purtroppo. Ci va Ninki Daro Sports. Yoko Dio, non devi scrivere. È lo yakyu, cioè ecco, il baseball. Quello che piace a te, Ale, no, il baseball. Che piace proprio, mi piace tantissimo. Ho visto qualche partita così, perché mi sono un po' appassionato nell'ultimo periodo. Il baseball lo capisci, perché io non l'ho mai capito. Pochissimo ancora. Però penso in giapponese, come è difficile capirlo. Sport un po' lento, però pare che... Vabbè, io l'ho seguito più che altro nella versione americana, quindi... tra l'altro in America non lo sport nazionale. Non ci sono grandi differenze. Ichiban tsuyoi chimu ga nandesuka? Vokaru? Giants. I più forti sono i Giants di Osaka. No, di Tokyo. Ci sono i Giants. Invece, tra l'altro hanno lo stesso nome di una squadra, la famosa squadra degli Stati Uniti. Stati Uniti. Ma infatti, sì, sì, tra l'altro, la cosa bella è che sia in Giappone che negli Stati Uniti è lo sport nazionale. Sì, sì, sì. Perché sì, anche negli Stati Uniti, nonostante sia molto lento. Guarda caso. Guarda caso. Un'altra domanda, andiamo da Martina, che vedo che sta addormentando quasi. Martina, no, ci sto sei? Pensando. C'è il baseball in Cina? No, prima vuoi sapere lo sport nazionale. Cioè, cos'è lo sport? Dai. Che, lo no, sai, lo no, sai. No, io non lo so. Il ping pong. Ma il ping pong, cazzo, è vero. È vero il ping pong. Cazzo, il ping pong. È una cosa. Io avrei fatto detto le arti marziali, però vabbè, il ping pong non è uno sport, le arti marziali. È vero, vedi? Una disciplina. Ecco. Vabbè, Martì, posso dirti una cosa? Poi dici di atto male, ma pure tu, eh. Ma l'ha detto anche lui, non è vero. Ma perché non te ne vai in Cina? Cioè, pure tu. Io sbaglio una cosa, tutti quanti addosso. Il ping pong. Sai sì, che bella una bella partita di ping pong. Ma guarda che non è affatto lento. No, è certo che non è lento. Il ping pong è uno sport. Ma io non riuscirei a vederlo. Però sembra un effetti speciali, c'è cioè questa palla che non si vede. Sì, però mi annoierei a vedere uno sport. No, so che negli ultimi anni, penso negli ultimi 10 anni, hanno addirittura dovuto aumentare le dimensioni della pallina, perché erano diventati talmente veloci che in televisione non si vedeva più. io sapevo questa cosa, quindi la cosa è probabile perché la televisione ormai comanda sugli sport, quindi non è molto la vedrò probabile. Mai perché non riesco proprio. Tra 10 anni c'è una pallina che ha dato la palla da basket con delle racchette enormi. Io so un aneddoto sul campione nazionale. Non vogliamo sapere. No, vogliamo sapere. Il campione nazionale di che cosa? Dai, del dici. Ping pong cinese. Che praticamente da poco ha fatto 18 anni e gli hanno proibito fino a 18 anni di frequentare donne. Perché lo distraevano dallo sport. Lui si era innamorato, ma si dovette lasciare. Ma lui però sta cercando di dirci qualcosa. Sì, infatti, aspetta. Io è uno sport che si fa con le mani. Se tu gli togli le donne a quel poveretto, è finito. Diciamo che lui dovrà procurarsi piacere autonomamente. E quindi se lo scorda il ping pong. Sei sicura? No, sei non sicura? Ci stai dicendo. Non che mi per ricordo caso... se fino a 18 anni oppure era. Ma perché ci hai provato tu col campione? Sei innamorato tu del campione. Ci hai provato tu? No. Ha detto no, non posso, devo giocare a ping pong. Non lo conosco. Non l'altro ho mai conosciuto un campione. Come faresti a crederci? Immagini, lei fa. Usciamo insieme. No, non posso, devo giocare a ping pong. No, sarebbe terribile. Sono cose assurde comunque. Ma questo mi sembra. Cioè, questa cosa l'ho vista in altre cose molto spesso in Cina, anche ultimamente. Ah, sì, il comunismo che purtroppo. Io non lo so neanche. Diciamo che il totalitarismo, perché poi dire comunismo. Vabbè, io. Sento puzza di conflitto proprio... culturale. No, no, no, no, no, no, no. Allora, perché c'è. Abbiamo detto no. Una domanda dalla chat. Dicono esplicitamente per mettere in conflitto il nostro esiliato. Perché in Giappone nei brindisi dicono kanpai e non cin cin? Qua c'è un sottobosco di informazioni fra loro due, credo. Che allora, chi ha fatto questa domanda è tendenzioso, oltre a essere un coglione, è mio amico, ovviamente. Per favore dici coglione in giapponese, perché così... Aho. Aho, ricordiamocelo, non dite mai aho in Giappone, perché si offendono. E rispondi, si dice quindi, come si dice... No, si dice kanpai, che vuol dire vissi, no, sto scherzando. Vuol dire, si scrive con gli ideogrammi di asciugare e tazze, cioè asciughiamo le tazze. Ah, cioè, tipo alla goccia. Alla goccia. Svuotiamo queste tazze. Svuotiamo le tazze. E non si dice cin cin perché cin cin è il pisellino dei bambini. Ah, il pisellino dei bambini. E tu fai cin cin, lo fa, ma pure tu lo sai, pure tu. Cioè, immagini. Ah, pure io. No, non è il caso. No. Cicin. Con gli stessi ideogrammi, no, non pensavo anche Cicin. Kanpai, che è proprio gli stessi ideogrammi. Sì, lo so. Sì, quello di asciugare e quello di tazze. Quindi mi raccomando, se andate in Cina, in Giappone, non dite cin cin, perché altrimenti fate e la come figura. Come si dice pisellino in cinese per dei bambini? So. Ma come non lo sa? Xia niao, penso, dato che il pisello è niao, quindi... Il pisello è niao? Sì. Sono questi soli molto onomatopei. Sembra Xiao Mei, sembrano gli involtini primavera. Sì, no? Sono perché Xiao vuol dire piccolo. Vabbè, allora che palle, sempre sto discorso. Però, dai, è pisellino, però. Cioè, quando io chiedo involtino primavera, a momenti faccio una confusione, potrebbero. Potresti darti chiedere un piccolo involtino. No, però, io però, però magari loro ti prendono per il culo. Faccio come faccio sempre i ristoranti cinesi, il numero 3. Risolvo il problema. Il numero 3 e risolvo così. Quindi abbiamo saputo questa cosa bellissima, volevo darmi il 5 io lo do volentieri. Allora, quindi ho saputo questa cosa del cin cin. Una domanda, banzai, perché noi siamo, cosa vuol dire? Banzai. Perché banzai non è do you imi. Banzai. Banzai. Sì. Ha fatto un gesto strano. Lo devo spiegare io. Ma io non so, tu sei già vergogna. Agisciro. Vergogna. La sta maledicendo. Banzai si scrive con gli ideogrammi di 10.000 e anni, cioè praticamente puts campacentare, cioè è non viva, è quel gesto urrà, alla salute. Anche quando si fa il cin cin. Vabbè, noi siamo qua in Italia, nessuno pensa al pisellino. Si può anche dire invece di dire campai si può anche dire banzai. E poi si uccidono. No, è una cosa bella dire banzai, non vuol dire, perché noi, visto che siamo sei kamikaze, no? Cioè, invece no, è una cosa, beh, banzai, evviva, urrà. Non ti devi lanciare, se dici banzai in Giappone, la mente non occorre che rompi 5-6 mattonelle di film, quindi capirete che è un banzai. Po' difficile. Non abbiamo bisogno, quando diciamo banzai, di rompere 5-6 mattonelle per dimostrare perché abbiamo detto banzai. Martina dalla chat dicono che, visto che stiamo parlando tante di queste cose, dicono trovate un afro samurai per la cinese. E la cinese che saresti tu? Sono diventata cinese improvvisamente. Tu magari sei di Napoli, si però. Si scherza. No, ma magari fosse cinese. Magari. Come Rejoice. Magari fosse cinese? Vabbè, non avrei bisogno di studiarlo tanto duramente. Hai capito? Come se io. Hai ragione. Però poi a quel punto non faresti. Però dovrei studiare italiano. Brava. Poi sarebbe difficile. Non potessi fare il. Allora, qui si diceva di fare una piccola pausa. Noi la pausa non l'avevamo considerata. No, ora però abbiamo due soluzioni. O noi continuamo a cantare qualcosina così. Ordiniamo no, possiamo una pizza. Mettere un pezzo, eccolo. Oppure qua. Mettiamo un pezzo in tema. Ah, facciamo, un pezzo in tema. Il sì. Pezzo è di Utada. No, abbiamo un pezzo giapponese? Sì. Allora ci fermiamo 5 minuti. Godetevi questa musica. Abbiamo sentito di peggio sulla radio, quindi godiamo la musica. No, no, abbiamo sentito delle cose terribili, quindi 5 minuti di pausa. Era meglio Gianfranco Marziano, secondo me. Ah. Voglio una volta diciamo. Eccoci qui, abbiamo appena sentito il Pharrell Williams giapponese. Sì, Justin Timberlake, peccato che è una donna. Vabbè, abbiamo appena sentito il genere. Il J-pop, cioè il pop giapponese. Io infatti parlavo nella pausa con Emanuela, ma ho detto che ormai anche il, diciamo così, è stato esportato il pop nello ormai, stile. Ma sono cioè, saranno 20 anni, pure di più secondo me. Vabbè, però questa musica era clamorosamente no, era proprio lì in Giappone, R&B forse. Questa era proprio la R&B. Il cioè, Giappone è una meta importante per molte band occidentali, comunque tantissimi concerti storici anche di band rock importanti sono diventati famosi. Allora io non Tokyo ho... Hotel scusate era terribile ma andava detta. Prego. Io in realtà non ne capisco molto, so che tantissime band vanno in Giappone, anche Nagoya le ospita e fanno tantissimi ascolti, e allora mi chiedo com'è che sento questa musica di merda i giapponesi, perché cioè, passa questa musica in terra, chi se la sente, chi ci va ai concerti, diciamo... ho visto anche ci sono anche delle ottime band underground, per esempio vi consiglio di Nagoya, un gruppo di ragazzi di Nagoya che dovete spingere e sono gli Akamon. che prendono il nome proprio da una località di Nagoya, che è il tempio di Osu, e quella zona si chiama Akamon, e sono una ottima band prog jazz che ve la consiglio. No, ma infatti loro su questo penso che siano anche abbastanza ferrati. Hanno comunque una cultura riguardo al jazz anche americano. Sì, sì, sì, sì, sì. In un telefilm che Treme si chiama, sì, su New Orleans, c'è proprio una sottotrama, una sottostoria che parla di un giapponese amante del jazz che va a New Orleans a dare aiuti ai musicisti jazz. Però quindi... io credo che, diciamo, i connoisseur di alcuni generi ci siano un po' dappertutto. Sì, sì, no, certamente. Però la massa, almeno personalmente, la media della massa è molto bassa. Ok. Io so che Antonio aveva qualche domanda da fare ad Emanuele. Sì, Massi chiedeva soltanto se Akamon era con H o senza H. Senza H. Senza H. Cancello rosso. Cancello rosso. Sì, vai Antonio. La domanda è già tendenziosa in partenza, ne abbiamo parlato anche accennato all'inizio, riguarda appunto una delle ultime offerte di lavoro che hai avuto. E diciamo, ecco, e diciamo questa occidentalizzazione nei matrimoni, che diciamo poi magari possiamo vedere se è presente anche, allora, in Cina. Spieghiamo innanzitutto qual è stata la proposta. No, non è in realtà nessuna proposta. Semplicemente il Giappone è forse il paese meno religioso del mondo. La maggioranza delle persone sono de facto atei. Ricordiamo che il Giappone è un paese shinto-buddista. Lo Shinto e il buddismo sono confluiti in un'unica religione molto presto nella storia giapponese, e sono continuati ad andare a braccetto come unica religione fino a 150 anni fa circa. Dopo, con la restaurazione Meiji, sono state di nuovo separate dopo secoli che erano andate insieme, e la religione di Stato è diventata lo Shinto. Ah, io ho letto infatti qualcosa. Però dopo la seconda guerra mondiale, per una serie di cambiamenti che non vi sto a dire, il popolo giapponese ha totalmente perso la fede, se non una questione di pura maniera, quindi ci si sposa shintoisti e si muore buddisti. Questo per esempio avevo letto, questa però, distinzione. Sì, perché fare il matrimonio buddista lo fanno in pochi, giusto forse la figlia dell'abate, perché porta sfiga, perché il buddismo è più una religione ascetica, tra virgolette, anche se il buddismo giapponese è un buddismo molto popolare. Ultimamente il Dalai Lama li ha anche presi per il culo. Sì, sì, è andato in Giappone, i monaci giapponesi gli facevano sempre domande sceme e lui gli rispondeva con cose ancora più sceme per prenderle in giro. Però de facto tantissimi giapponesi non fanno niente, e quando si sposano, visto che sono inondati da questo occidentalume, sì, film, telefilm e cose del genere, si sposano con dei riti finti cristiani, finte chiese, molti pensando in realtà che sono vere, però, in realtà non vale. Cioè non hanno valore, se non poi... solo, ma il sacerdote lì non è un vero sacerdote. Non è solo un ragazzo occidentale che si è imparato una parte e... Cioè quindi tu puoi essere sposato da uno che in verità sta lì e lavora in un ristorante. Sì, e lo chiami anche padre. E lo chiami anche padre. E questo, ma è anche ovvio, perché essendo poco profonde le persone che fanno queste cose, essendo poco interessate, non andrebbero mai a fare la preparazione matrimoniale. Non gli interesserebbe mica, loro vogliono solo il rito. Che lo fanno tra l'altro magari in un hotel, no? Queste in modo più spazioso possibile. Aziende fanno i pacchetti, anche perché mi pare di aver sentito che costa di meno di farlo che farlo in video shintoista, perché gli fanno il pacchetto. Cioè gli fanno il pacchetto viaggio, come il viaggio organizzato. Allora, cena, fotografie e anche prete Pezzotto. Non lo so. €200 e vai così. Esatto, una cosa del genere. E siamo pace. non ci credo. Ed cioè... è tristissima. E certo, perché è uno tristissima, si... però vagliela a fare capire. E pagano come bene. Ce lo dici a un giapponese che sta facendo? Come ce lo dici? Io non ce l'ho sentito, ce lo puoi dire? Tu, io neppure io glielo potrei dire, quindi. Però. Certo, però se vedono a me qua, si deve aprire, forse i sospetti ce l'hanno. Però vi dico, si fanno soldi. Sì. Si fanno soldi, sì. Cioè, io conosco gente che lo fa e che si porta a casa al mese anche 150.000 yen. Ora, non nel mese. Che sarebbero? E che sarebbero quei bei 1.000 euro, 1.100 euro, che non so male. Cioè, fa finta di essere un prete. Esattamente. Là, se lo fai qua, no. Però, t'arrestano probabilmente. Sì, t'arrestano oppure no, dipende. Io voglio fare un paio di domande di curiosità che io sono andato a cercare da bravo... stupidino che non sono altro di curiosità e voglio sapere stupidino sì e voglio per non dire stronzo però ve l'ho detto come si dice stronzo in giapponese c'è un termine aho aho è tale qua oppure lo so testa no, di cazzo testa di cazzo cimpatama è carino da domani tu sarai cimpatama su anche sul mio cellulare allora è perché bello io chiamo Alessia cioè con la N o con la M giusto per essere sicuri. Lui studia lettere con la N studia le lettere un errore grammaticale A B C D allora una no, prima allora, quindi cimpo atama una allora, prima cosa okay. È la questione raffreddore. Io ho letto che è un gesto di estrema maleducazione starnutire in pubblico. Hanno Nihon deva hanno mushi minano mae de kushami shitara hanno gyogi waru no koto desu ka? Kushami shitara. So da ne, gyogi waru. Sì, non e è come mai? Perché? Nan de gyogi waru desu ka? Per un fatto di germe. Fare rumore non è bello, oltre al fatto che comunque cioè, i germi. Infatti io tra l'altro ho letto sempre in giro che quelle mascherine non sono solo per lo smog, ma sono anche per... No, non esistono le mascherine per lo smog, perché il Giappone è un paese che ha tutto sommato un'area non così sporca, perché quindi sono appunto per questo motivo, quando si è raffreddati per sì, nascondere... Sì, d'inverno ne vedi tantissimi, che e se vai in Giappone, se lavori in Giappone ti viene chiesto anche a te. Ah, quindi per una questione proprio perché io ho il raffreddore e in pubblico, non per gli altri mi mettono se mascherina. Se io ho il raffreddore allora forse... Quindi è maleducato, meglio. Quindi soffiarsi il naso per vedere che si è... Sì. Il naso appunto non voglio dire i termini giusti però comunque però anche sai solo con la respirazione i germi si quindi è una questione di educazione non è una questione di educazione quel mito che perché lo smog non è vero quindi se c'ho il naso diciamo sporco non posso far vedere di che lo pulisco davanti se a tutti se ti scaccoli va bene va però. Bene cioè non è che va bene però non è proprio però non soffiarlo è, mai. È brutto. Quindi le mascherine non sono per l'inquinamento, però, che non c'è. Però quello che fanno tantissimo è fare, quando sono raffreddati, in continuazione, che non è maleducazione. E questo non è maleducazione. No, questo no, però la mascherina... E da noi invece è terribile. Io non... mi sono preso una quantità di ceffoni dai miei genitori per una vita, perché... Su coco, taka careta. Una quantità di ceffoni. Ste, hanno nanka itaria de gyogi warika. Sta spiegando come prendeva i ceffoni, Alessio. Taka careta. Nitaria te. Chissà come. Dov'è il ceffone in questa cosa? Pinta. A pinta. Facevano male, però. In Cina sono molto più liberi su questo. Perché. Si può... Ma sì, sputano scusa. E scatarrano in continuazione. È una, Martina, una cosa. Delle varie cose che succede in Cina, Martina? Dici. No. Sputano e scatarrano in continuazione. È vero, io l'ho letto non questa storia di sputare per. Non è sputare, però lo è soffiarsi il naso. Cioè, sono un po' infastiditi se ti soffi il naso. Infatti, non so se ti ricordi nei cartoni animati giapponesi o cinesi, quando il protagonista è malato di raffreddore, praticamente sta morendo. Sì. Si chiude nel letto e sta morendo. C'è il gocciolone. Invece sputare per terra non è maleducazione. No, non cioè io, ma ovunque, anche nei posti chiusi. Sì, ma anche nel bar, il barista ti fa il cocktail e poi mentre te lo fa sputa a terra, si gira e sputa a terra. Questa è una cosa bellissima. Cosa. Il barista ti fa i cocktail che tu pensi, vabbè, un po'. Lei sbeve in Cina, naturalmente. Mentre fa sto cocktail, c'è tutto, si gira e sputa a terra e ricontinua. Scusami. Un po' maschilista, come lo chiedi in Cina il sex on the beach? Sempre sex on the beach. Questi si chiamano negli stessi, sì. Ma però loro non lo capiscono, ovviamente. Ecco. Devi ripeterlo varie volte. Pensa a questi che da anni e anni continuano a sputare per no, terra. Come sono diventati bravi e abili in questa cosa? No, dalle Olimpiadi hanno tolto un po' questa cosa perché. Ah, io pensavo che era diventata sport no, disciplina olimpica. Sport nazionale. E loro sono i campioni mondiali. No, però sembra che sto dicendo solo cose brutte. No, dici anche qualcosa di bello allora. Cioè, sputano lontano. No, questo alla fine è una cosa positiva perché non bisogna trattenere i monkey. sì, tirare vabbè, su col naso. Sì, però si fa in un fazzoletto, non è che devo scatarrare nel bar. Questa è una di quelle cose naturale, hanno... quindi non fa schifo. Allora però, io... come i bambini che non hanno i pannolini. Ho capito. È vero, questo l'ho letto. I bambini la fanno in mezzo alla strada. No, guarda, però la strada è sempre pulita. Pechino è la città più pulita che abbia mai visto. Non lo metto in dubbio. Non c'è però. Una cacca per la strada di cane. Non quindi c'è... i genitori. Però posso c'è di bambini. I genitori, no, i genitori non... girano con le palettine come no, per i cani oppure. Non lo so. Guarda, no, li prendono e lo mettono sopra un cassonetto di immondizia. Allora là. Alla spina. Ma non ho mai visto un bambino evacuare. Sì, però ho visto un sacco di culetti all'aria. Quindi penso così. Che corrono tipo cosa... nelle aiuole come i cani. Io, cioè. Oppure evapora miracolosamente. Io in l'ho alto. Letta questa storia. Che sì, è vero. Non però c'è è questo carino. Senso di libertà. È carino. Però non per come sputare. Per i bambini, vabbè, posso capire. Però sputare. E anche la puzza. Però, per esempio, d'inverno non puzza. Però posso dire una cosa. Tu hai detto, dici. Io non voglio dire una cosa cattiva alla Cina. Abbiamo stato, abbiamo chiesto, è la puzza. Cioè, quindi pure tu. Vabbè, ma il primo impatto è un po' una metafora, no? Dell'impatto col diverso. Quindi è stata dura all'inizio. All'inizio sì, però ad esempio d'inverno non c'è assolutamente puzza. E se ti capita, però i bambini cagano comunque per strada così. No, perché fa freddo, quindi non so se deve. Si dovesse ammalare il bambino, mentre fa ammalare il bambino. Due cose positive: è la città più pulita che abbia mai visto e ci soprattutto è una città estremamente sicura, cioè tu puoi andare in giro a qualsiasi ora del giorno, sì, sei anche letto. Se sei donna. Io mi sono ritirata tutte le ore con la mia biciclettina perché mi sono presa una bicicletta come tutti. E io qualsiasi cosa la facevo con la bicicletta tutte le ore del giorno e della notte, non sono mai stata aggredita. Sì, questo o l'ho letto pure io. In effetti, assolutamente cose che qua sarebbe impensabile. Tu in bicicletta duri 20 secondi qua, sì, verso infatti. Le 2 di notte, te la smontano mentre stai pedalando, ti rendi conto che non l'hai più. Ah, questo mi è successo, ma... Come diceva mia mamma, mamma posso lasciare la bicicletta qua? Sì, ne trovi 3, la classica battuta di dire che non le trovi più. Senti un attimo, ma il rapporto invece occidentali-cinesi com'è? Beh, io purtroppo sono stata in una università in cui c'erano tantissimi studenti occidentali e c'erano anche studenti cinesi che studiavano lingue occidentali, quindi loro erano proprio vogliosi di avere rapporti con noi. Di che genere? Di amicizia, di scambio, però sono molto sessisti, cioè la femmina con la femmina e il maschio col maschio. Questo l'ho visto comunque con i cinesi, sì. Però al di fuori dipende, cioè se ti devono vendere qualcosa sono proprio i migliori del mondo, ti cospargono di complimenti, eccetera, eccetera. Se invece sei un nemico, cioè per esempio lui è un burocrate, tu devi fare un visto, queste cose così, devi pagare a loro una somma. Il burocrate è un nemico in ogni stato del ecco. mondo. Questa è una cosa e che, questa è una verità è una cosa assoluta. Che tutti, è una cosa che siamo cittadini tutti. Del mondo, come diceva Socrate, perché i burocrati sono odiati da tutti. Cinesi no, come si dice burocrate in cinese? Gaoji, burocrate? Non lo dice. Non ne ho la più. Sei non stato fuori no, burocrate. Io ho detto tipo livello alto, non ho detto burocrate. Burocrate, nante iemai, il gnomo del burocrate. Hai capito, Martina ci ha preso per il culo. Allora, no, Martina non lo so. Ci sta Emanuele, per il culo da Emanuele, un ti do un consiglio, infatti. Allora, abbiamo appena notato che lei ci ha preso per il culo fino adesso. No. Tu puoi dire qualsiasi termine, potresti no, anche vabbè, dirmi. No, siccome mi potrebbe ascoltare qualcuno che il giapponese lo parla, se dico una stronzata poi. Idem, per questo mi sono corretta. Ah, sei corretta, però intanto non ce l'hai detto come si dice burocrate. Non me lo ricordo. Vedi, allora dobbiamo dirlo, dici non me lo ricordo. Vabbè, lui l'ha detto? Lui no, però è stato sincero, non ci ha detto una parola a caso. Vabbè, un giro di parole, una parola a caso. Io so che Antonio mi fa una domanda. Sì, sì, sì, infatti Martina, sì, perché diciamo della Cina la conosciamo molto bene perché dietro a qualsiasi prodotto tecnologico con cui abbiamo a che fare c'è inevitabilmente scritto Made Taiwan. In Cina. Ma dietro la Cina c'è scritto Made in Italia. Comunque burocrati si dice Yakunin. Fammi vedere se assomiglia a quello in cinese. O anche si può hanno un oggettino cambio tecnologico che potrebbe prodotto da Satana probabilmente. No, è la Seiko. Alla Seiko. È la stessa cosa. Vedere con Guan, che vuol dire ufficiale. Comunque, noi sappiamo che la tecnologia è patria praticamente di questi posti. Ovunque c'è scritto Made in Cina, tra l'altro, ogni cosa. Voglio sapere un po' com'è là la tecnologia. Nel senso, è come penso io, tutti iper tecnologici hanno degli aggeggini assurdi che noi ci dimentichiamo. Non esiste. No. No. No, assolutamente. No, perché il cinese medio non è che si possa permettere più di tanto. Loro lo fanno per l'esportazione. Hanno tutti quanti un PC, quasi tutti. Però tutti, anche il più povero che tu pensi, vabbè, questo chiede l'elemosina perché, che ne so, cioè in mutande, ha il cellulare di ultima generazione. Capito? Perché il cellulare è proprio il bene primario. C'ho freddo, però posso chiamare a qualcuno. No, è una col cosa che screen. Mi ha stupito tantissimo. Poi le suonerie tremende. Questo è bellissimo. Però non è per come... esempio? No, certe suonerie incredibili, proprio... Sì, vabbè, ma noi abbiamo quella del gattino, No, sì, noi abbiamo intenzione di com'era quella del gattino? Virgola, virgola, virgola, virgola, virgola, sono un gattino. Ma quelle secondo me nascono in Cina, non vorrei dire. Ma no, chissà come sarà, diciamo, virgola, sono un gattino in cinese. Dai, dai, in cinese. Sì, alla fine dirà che viene mangiato, sicuramente. Questo. Mao. Mao, mi sembra giusto. Mao è per dire gatto. Ma non l'avrei mai detto, guarda. Guarda. Infatti è simpatico. Ma non mi sembra il caso. Mi è antipatica, Mattia, tu non hai capito. Così, comunque. Non hai capito che mi sta antipatica, si inserisce, fa, è cinese. Naturalmente sto scherzando e sono felicissimo di avervi qua, mi siete simpatici tutti e tre e quattro, Antonio, ovviamente. Sì, io c'ho chi? Antonio, Antonio, no. Che Antonio, Antonio è di Caserta. Antonio, a Caserta come si dice gatto? Caserta del l'Antonio. Mi stava rispondendo. Caserta del ci ho pensato. Allora, altre curiosità sul Giappone. Scusi, la Cina non ha avuto tempo di prepararmi benissimo. Quindi sono molto sono sincero sul Giappone. Ma tanto mi insulti, quindi vabbè, riempio. No, non ti preoccupare. Sempre a proposito di tecnologia, solo una cosa volevo chiedere a Emanuele, se spesso, diciamo, in Occidente, almeno mi è capitato di vedere che si parla molto del famoso quartiere di Tokyo, diciamo quello iper tecnologico. Ci sono stato Credo si chiami Akihabara. Akihabara. Akihabara, perfetto. Ci sono stato. In realtà, rispetto a quello che io immaginavo, non è che mi ha impressionato più di tanto. È semplicemente un posto dove ci stanno, oltre a ben negozi normali, tantissimi tipo negozietti, perché le strade sono strette, quindi questi negozietti si allungano fino sulla stradina e tipo in un pochissimi metri quadrati hanno di tutto, però non è che hanno tantissimissima alta tecnologia, cioè hanno alta tecnologia, però la cosa preponderante è tipo, non lo so, prolunghe oppure lucciarelle che si accendono, oppure fa molto colore, capito? Ecco, c'è un sacco folcloristico, c'è un sacco di robaccia tutta insieme, di junk tutto assieme, anche roba usata, eccetera eccetera, però è tutto lì. E poi vabbè, ci sono i mostri di Akihabara, che sono i ragazzi che stanno tutti quanti vestiti strani, eccetera eccetera, che poi, perché ci sono tantissimi anche negozi specializzati poi in manga e ste fatti qua. Una domanda, una cosa che ho visto una volta in televisione che mi ha sempre affascinato, no? Più che altro mi chiedevo il perché. Ci sono degli hotel in Giappone, gli hotel a capsule, giusto? I capsule hotel, sì. E sono dei... raccontaci, cioè io non ci sono mai stato, anche se ci sono a Nagoya. Però capsule hotel, tomata koto arimasuka? Di solito ci si fermano gli uomini, dice Misuzu. E domo imasuka? Nihon arawashiteru ki ga suru, semai space ni tte. Ma non, diciamo che lei dice un po', diciamo sono un po' un simbolo del Giappone, perché in uno spazio piccolissimo si dorme, c'è tutto, eccetera eccetera, però ovviamente non si può stare neanche in piedi. Lei dice non mi piacciono, però personalmente da quello che ho visto in realtà non è una cosa così terribile di come sembra. Io non penso sia terribile, penso perché sia particolare. Tu vai a vivi lontano, ok? Allora perdi l'ultimo treno o così. Un hotel normale costa 5.000 yen, un capsule hotel costa 2.000 yen. La costa metà, 3.000, meno della metà. Meno della metà. Questo qui ti permette di lavarti, di un letto, ci sta la radio, la televisione se la vuoi guardare, e di dormire. Perché quello, diciamo, è praticamente una capsula dove non si può stare in piedi, puoi solo stare stesi. No, vabbè, tu arrivi fino alla tua, al tuo loculo, è brutto dirlo, però vabbè. Già fatto che... perché effettivamente sembra un loculo, questo poi lo devi spiegare ai giapponesi perché sì, a noi infatti, ci fa tanta, perché ovviamente tanta a noi fa impressione, tanta perché, no, certo. Perché a noi le tombe sono così. Sono certo, così, certo. Una sopra l'altra nel loculo. È così, per loro no, perché c'è la incinerazione, anzi, certo. Anzi la tumulazione è vietata per la legge giapponese. Okay. Non ti puoi far tumulare in Giappone, ti devi far per forza fare il vasetto di crema, come diceva Totò. Ok, ah, questo è il pezzo di Renato Pozzetto, vado a vivere in campagna dove lui vive. Sì, che non ci sono. Tac, una sorta di tovaglia metro. Di capsula. Ah, sì, sì. Tac. Tac. Però ho visto posti come questi, quasi come questi in Giappone, nel senso piccoli, dove si vive in pochissimo spazio. Infatti Misuzo l'ha detto, che è praticamente un simbolo, può appunto nel piccolo avere tutto. Il Capsule Hotel, visto così da solo, in realtà non è una cosa brutta. Cioè, no, ma io non penso, sia brutto nel senso molto particolare l'idea che... Cioè una cosa improntata al risparmio, una cosa furba secondo me. Sì, nel senso che se devo solo dormire non voglio pagare tantissimo per una camera con tutti i comfort, anche perché i capsule hotel ce l'hanno, molti comfort, sì. E quindi devo solo dormire, va bene così. Va bene così, sì. Ah, carino, certo, non è che ci si dorme. Vabbè, poi ci sono gli immigrati dei siti, dei centri internet e tante altre cose simpatiche. Ottimo, ottimo. No, io direi che ci siamo. Solo. Io non so, volevo sentir parlare un po' dei samurai. Hai ragione, è un argomento importante. Samurai. Penso che dobbiamo fare delle precisazioni. Anzi, chi sentirà, magari spinto dalla trasmissione, le nostre puntate di Manco Pacapa. Quello le vecchie edizioni, dobbiamo avvertire che l'esiliato ha detto una quantità di puttanate sulla storia giapponese. Per favore, puttanate in giapponese? Ahonao koto. Bakanakoto. Hai detto una serie di puttanate sul Giappone o in giapponese? Sulla storia giapponese e sui samurai in particolare, perché mi sono imbrogliato con date, famiglie, eccetera, eccetera. Quindi prego i miei professori, se un giorno sentiranno queste cose orribili che sto dicendo, di perdonarmi. Scusate. Allora, noi abbiamo la curiosità sui samurai, perché poi noi tutto quello che sappiamo ci viene tramite molto la televisione, il cinema, il samurai è una classica figura. Ma Nihon no koto nitsuite hotondo hanno samurai. Ma Martina ci incita. Sì. Martina ormai fa parte del gruppo proprio così. Cosa ci dici? Ma no. E che vi devo dire? Chiediamo a lei. Certo. Nande samurai ga sonna ni ninki ni natto konnasu? Perché i samurai sono... Sì, perché sono... Ma nande ano nihon de sonna ni ano taisetsu da shi? Sore yori, sore ni nande ano kaigai de sonna ni ninki ni natto konnasu? Cioè, perché i samurai all'estero sono così popolari e perché in Giappone sono così importanti? Kimiga hanno ma samurai kazoku kara kun. Lei comunque è di famiglia samurai, ricordiamo. Ecco, questo non scusa. E io infatti prima mi stupivo di questa cosa e mi è stato detto non ti stupire così tanto perché ce n'erano comunque, è come dire sono parente di un conte, di un vecchio conte, capito? Ma comunque non è rimasto niente della sua famiglia, proprio zero, non hanno neanche più la katana, cioè forse solo per il cognome della madre che è un po' diverso e quindi probabilmente era discendenza samurai. Comunque e niente, da Riccardo salutiamoci, Riccardo Cremona e Alessio Strozzo. Bravi! 2010, siate grazie. Curiosi, ciao. Ciao. Ciao. Dieci. 20. 20. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10.